Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte? Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi? Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum, ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della guerra. Invio! Non si può entrare qui! Fuori! Prima o poi mi sparo! Prima o poi mi sparo! Ed eccoci di nuovo con Radio Possum, appuntamento del lunedì sera su Radio Onda Rossa. Questa sera parliamo di un sacco di cose, abbiamo almeno un paio di collegamenti, sempre che riusciamo a farli col telefono, perché l'altra scorsa settimana c'erano stati un po' di problemi. E il tema centrale della puntata è: ci contatteremo i ragazzi di Villa Vegan Squat, che è una realtà occupata a Milano, uno squat libertario e ovviamente anche antispecista. Prima di salire su a Milano, però, vogliamo riportare quello che è accaduto ieri mattina qui nei dintorni di Roma, e quindi nella nostra zona geografica, diciamo così, e cui ci teniamo particolarmente a dare una certa rilevanza. Come sapete, il 15 settembre si è aperta ufficialmente la stagione di caccia. Il 16 settembre alcune persone hanno deciso di fare quello che viene chiamato disturbo venatorio, che non consiste altro che andare nelle zone dove ci sono i cacciatori e semplicemente camminare in mezzo ai cacciatori, così facendo la loro conoscenza e per pura coincidenza, per pura casualità, rallentando, disturbando la loro attività venatoria. La pratica di disturbo venatorio è una pratica di, appunto, di opposizione alla caccia, una pratica di soprattutto di riacquisizione di territori che dovrebbero essere di tutti e che invece da settembre a gennaio vengono occupati militarmente da questi individui in mimetica e in fucile, che con la loro attività uccidono ogni anno migliaia di animali, finanziano soprattutto le industrie delle armi, la beretta e il film meccanico e via dicendo. Insomma, la caccia oggi è una pratica assolutamente spregevole, antiecologica, e queste persone hanno deciso appunto di riprendersi quel territorio che dovrebbe essere pubblico e aperto a tutti, che invece non lo può essere, perché nelle nostre campagne dei pazzi maniaci mimetica girano sparando a tutto quello che si muove. Ieri nell'agro romano, diciamo, questa attività di caccia è stata ostacolata in maniera assolutamente pacifica, ovviamente, senza nessuna provocazione, senza tantomeno nessuna violenza. E vabbè, mettiamo un piccolo brano e poi sentiamo Villa Vegan. Life has taken its toll. She just doesn't know how much more she can give. But here, at the top of the world, where I raise my hands and I clench my fists, they stand before me below, demanding the answers with flips of a switch. E allora sfumiamo un pochino la musica, perché siamo in collegamento con i compagni della Villa Vegan Squat di Milano. Ci sentite? Pronto? Sì, ti sento malissimo. Ok, ecco. Sì, questo purtroppo i mezzi tecnici a nostra disposizione non sono il massimo, però ci senti ora? Ecco, purtroppo no, niente. Ecco. ok, ci senti? Adesso forse sì. Ok, perfetto. E ciao, allora niente, così stavamo dicendo Villa Vegan. Guarda, vai bene. Ok, allora casomai mettiamo un attimo una canzone, proviamo a richiamare. Richiamiamo. Perfetto. Ok. It's all I know is now. Vai Corbis, vediamo se adesso va meglio. Ci senti? Ci senti? Sì, adesso sì. Ok. Ok, ma il secondo tentativo, vediamo. Hai la volta buona. Allora, perfetto. Niente, dai, se ci cominci un po' a descrivere il progetto Villa Vegan, come nasce, che cos'è, che cosa portate avanti e via dicendo. Insomma, cioè, ce l'immaginiamo tutti, ecco, però una descrizione più approfondita. Ma allora, Villa Vegan è un posto che è una casa occupata da 14 anni ormai. E appunto e negli anni la gente che ha abitato, che ha vissuto questo posto è cambiata e adesso siamo un gruppo di persone che vive qui e fa iniziative politiche. Ovviamente questa è nata e rimane una casa anarchica, quindi tutte persone che portiamo avanti nella nostra vita comunque. Insomma, siamo parte del movimento anarchico e con quello che sono le pratiche di vita nelle occupazioni e nelle iniziative che facciamo. E è una casa che da 5 anni forse adesso ha preso il nome di Villa Vegan, prima era semplicemente Villa Occupata, e proprio perché da 5 anni a questa parte tutte le persone che vivono qua sono antispeciste, vegane, quindi insomma è cambiata la connotazione, diciamo, simbolica del posto. Ecco, ti volevo dire, ultimamente voi siete un po' in una situazione di emergenza, nel senso che siete sotto minaccia di sgombero e vi dicendo, ci vuoi parlare un po' di questa situazione, che cosa state cercando di fare, come vi state muovendo, se avete avuto anche solidarietà, partecipazione da altre realtà e via dicendo. Sì, guarda, il discorso adesso diciamo più attuale è che diciamo fine luglio, comunque quindi in quest'ultima estate, sono arrivate delle denunce per occupazione a 4 persone che vivono qua, dovute a in primis a una sumozione del demanio, visto che questo posto è proprietà comunque del demanio del comune. Su richiesta appunto di identificare chi viveva in questo posto e di chiedendo comunque anche la liberazione del posto dagli occupanti. E quindi sono avvenute diciamo delle investigazioni che hanno con persone anche che sono riuscite a intrufolarsi qua camuffandosi in una situazione e hanno diciamo fatto il riferimento che qua vivevano una decina di persone e che c'era la costruzione di questo forno abusivo, che secondo loro è stato dichiarato così, deturpazione di luogo pubblico, quindi le denunce sono anche questa cosa ridicola qua. E quindi diciamo, arrivate queste denunce, si è fatta un po' di informazione, si è cercato di capire un attimino anche le motivazioni e cosa potesse significare, e quindi diciamo siamo tornati un po' più sull'allerta, nel senso che un posto occupato da tanto tempo e probabilmente in questo senso era per dare un segnale che comunque la situazione loro tenendola sotto controllo e che quindi fondamentalmente lo sgombro può avvenire in qualsiasi momento, come può avvenire fondamentalmente ormai per qualsiasi realtà di questo tipo sul territorio milanese, dove difficilmente se un'occupazione politica ti danno preavviso o cose del genere, e a volte riesci a diciamo captare delle movenze dalla controparte e riesci un attimino e cerchi un attimino di organizzarti. noi nello specifico ci siamo un attimino riraggruppati e per esempio per tutta il mese di agosto siamo stati molto presenti, ci sono state molte iniziative, molta gente girata e c'è stato comunque un forte supporto da parte di molte persone che vivono qua sul territorio e quindi questa è stata sicuramente una cosa positiva, insomma che nel momento un attimino del... Insomma, quando riviene fuori che comunque tutti i nostri posti sono comunque sempre sotto questa minaccia, comunque c'è una risposta quantomeno dal punto di vista individuale da parte di molte persone. Sì, ciao, abbiamo visto anche che avete portato avanti una serie di progetti anche basati sulla autoproduzione, avete una ciclofficina, mi sembra, un orto, volevo appunto sapere come portate avanti questi progetti, se appunto fate iniziative in cui giornate che coinvolgete appunto anche le persone locali per così espandere questa pratica di autoproduzione che è una pratica di lotta centrale, al di là dell'antispecismo. Ma sì, appunto, come hai detto tu, da un paio di anni a questa parte c'è una ciclofficina che è aperta ogni martedì dalle 2 del pomeriggio fino alle 7 di sera. E, ovviamente è una ciclofficina insomma piccolina, adatta un po' al nostro posto, dove tutto sommato comunque sono girate parecchie persone, non con i grandi numeri di altre ciclofficine come ci sono a Milano. Ma tutto sommato è una dimensione anche che va bene per quello che è il posto, che è la specificità e quindi insomma sono nati anche rapporti con persone che sono venute qua e magari appunto in futuro si potranno fare anche così insieme. Un'altra cosa che si era cercato sì di collettivizzare, di aprire un attimino all'esperienza era stata quella dell'orto nella passata stagione come avevi detto anche prima e sì c'è un orto abbastanza sperimentale che poi si era un po' partiti poi adesso rimane un po' così e magari il prossimo anno sarà un po' meglio, vedremo, però diciamo queste sono un po' le soprattutto quello con la ciclofficina, il progetto un po' più di in cui il posto è aperto e in più ovviamente le innumerevoli comunque iniziative che possono essere concerti spesso fatti comunque anche per fare supporto economico a lotte o a prigionieri o a qualsiasi di queste cose per supporti legali oppure iniziative più culturali come presentazioni di libri, come incontri, assemblee insomma e via dicendo. Appunto la lotta antispecista, voi portate avanti delle iniziative in tal senso, avete degli animali, non so, appunto non conosco la situazione. Sì, un'altra appunto una diciamo bella particolarità di Villa Vegan è che non è semplicemente una casa ma è insomma un terreno intero dove all'interno appunto c'è un parco, quello che può chiamare quasi un boschetto, visto che sono forse più di 15 anni che non c'è un intervento forte di intervento e quindi è interessante anche vedere come queste cose arrivano un po' per i fatti loro quando si lasciano andare e all'interno di questo parco si hanno trovato diciamo casa anche diversi animali e quindi diventa una sorta di rifugio per tanti animali che vengono spesso da situazioni di sfruttamento e in questo momento ci sono comunque galline, un'anatra, tacchine, oltre ovviamente a dei cani e dei gatti che comunque girano qua e quindi insomma sì, anche non ci siamo solo noi umani in questo posto qua. Senti, tra le varie cose che organizzate, diciamo, anche riguardo, è interessante secondo me riguardo l'intersezionalità delle lotte, per esempio quest'anno non si è tenuto, però negli anni scorsi c'è stato il Queer Festival, comunque voi spesso fate serate che hanno una connotazione anche antisessista, antiomofoba, se ci volete parlare anche di questo aspetto della Villa Vegan. Mm-hmm, certo, sì, l'anno scorso appunto c'è stato il Queer Festival, insomma che era nato proprio perché molte persone che comunque vivono questo posto hanno insomma come si dire oddio, mi manca la parola, cioè, nel senso, lavorano, è una bruttissima parola, a me vengono altro sulle tematiche che riguardano comunque il sessismo, l'identità di genere, la decostruzione di genere, e quindi nella fattispecie nell'anno scorso, insieme anche a qualche persona esterna, si è organizzato questo festival per rilanciare appunto anche anche nel movimento anarchico, diciamo, l'importanza delle tematiche di genere. Quest'anno non c'è stato, diciamo che poi questo è una sono, diciamo, anche situazioni che portiamo avanti anche collettivamente, ma anche molte persone individualmente in tante maniere, come pubblicazioni di scritti, traduzioni, quindi insomma un'attività anche più da quel punto di vista. E poi sì, sono comunque cose importanti che insomma stiamo sempre attenzione anche quando comunque organizziamo altri tipi di iniziative, insomma cercare di dare uno sguardo anche all'interno di quelle che sono le nostre relazioni, le nostre dinamiche di come relazionarci quando siamo in questi contesti, quando siamo tra di noi, quando appunto siamo tra di noi che vogliamo liberarci da molti stereotipi culturali, tra cui anche quelli di genere. Senti, secondo te c'è un po' una carenza di dibattito su questo, ma anche su altri temi? Per esempio, a me fa specie, diciamo, a parte la Villa Vega, non credo che ci siano altri centri sociali anarchici in Italia che per esempio si occupano di tematiche come ciclofficine o anche temi, ad esempio, su movimento queer, identità di genere, antisessismo, eccetera. Secondo te, e ormai io, purtroppo, anche più di antispecismo, una forte componente anarchica non se ne occupa più. Secondo te perché c'è una carenza su questi temi? Ah, bella domanda. Per quanto riguarda il discorso sul sessismo, sì, in effetti è vero, infatti la necessità da parte di molte persone anche di partire dalla pubblicazione di testi che spesso sono esperienze di altri paesi come la Francia o come gli Stati Uniti, dove appunto magari queste tematiche all'interno del movimento anarchico sono più affrontate e quindi si confrontano anche più sulla realtà. Qui appunto questa mancanza è stata comunque avvertita, insomma, è qualcosa che si avverte, e spesso e volentieri sì, magari è vero che in tanti spazi anarchici queste tematiche non vengono affrontate o magari vengono affrontate insomma in una maniera un po' forse superficiale, si potrebbe dire. E la cosa interessante che mi viene un attimino da dire è che però al di fuori di quelli che sono i posti prettamente anarchici ci sono comunque altre molte realtà, cioè qualche realtà che comunque cerca di affrontare questi discorsi, e che quindi spesso magari è capitato di confrontarsi su queste tematiche con persone un pochino al di fuori del milieu. E questo penso sia stata una cosa interessante per affrontare queste tematiche, comunque affrontarsi con persone che magari hanno un background leggermente diverso dal tuo, ma che comunque sentono la necessità di dover affrontare queste tematiche con urgenza, perché poi è un discorso di urgenza, perché quello che riguarda il sessismo va a toccare proprio molto che quelle che sono le nostre relazioni più personali, e che quindi anche all'interno di relazioni, all'interno di movimenti possono creare molti e moltissimi problemi, e quindi spesso al di fuori si riesce a trovare un attimino questo discorso per cercare poi ovviamente di fare in modo di poterne parlare sempre di più anche in tanti spazi, in tutti gli spazi anarchici libertari. Mentre per quanto riguarda la questione sull'antispecismo, sì, effettivamente volendo fare proprio una visione, magari adesso un po' breve così, in effetti c'è questa leggera tendenza all'abbandonare un pochino da parte di molte persone del movimento anarchico questo approccio. Per tanti magari più dal punto di vista di smettere di essere vegan, e quindi che però di conseguenza porta all'affrontare queste tematiche con un peso di serietà in meno. Sì, e quindi anche qui si vede un meccanismo non simile, però dove anche qui invece, diciamo, nel movimento di liberazione animale un po' più allargato, c'è la necessità al contrario di portare magari delle istanze un po' più radicali, e quindi, diciamo, da quel punto di vista in questo momento vedo una situazione del genere dove ci sarebbe la necessità che molte realtà anarchiche si occupassero molto più con profondità rispetto alla questione dello specismo. E per ritornare invece alle iniziative appunto che porta avanti, abbiamo visto che c'è stato un mese fitto in cui, in seguito a questa minaccia di sgombero, e le vostre attenzioni, cioè l'attenzione che volete appunto porre su questa problematica, la state riempiendo ancora con altre iniziative nel corso di tutto il mese appunto di settembre. E volevamo sapere i prossimi appuntamenti, se ci volevi appunto lanciare un appuntamento e dare un riferimento, un contatto vostro. Ma allora, adesso nell'immediato diciamo che si continuerà comunque, ma come sempre, fondamentalmente a fare iniziative. Ovviamente abbiamo avuto sono molto aumentati in quest'ultimo tempo e penso che magari sarà una spinta anche a organizzare cose differenti, magari anche in futuro con più frequenza. Questo poi lo vedremo. Abbiamo la presentazione del libro a fine questo venerdì sul scrittore napoletano sullo zucchero. Poi ci sarà comunque un'altra iniziativa, penso, più a breve, e in più magari comunque l'appuntamento domenica sera magari con la pizzata, che per tutto agosto va avanti, quindi cercare di creare anche momenti in cui comunque ci si ritrova e si chiacchiera. E poi appunto probabilmente adesso riaprirà la ciclofficina, tutto sommato adesso comunque è settembre, quindi diciamo che la vita urbana, che magari ha sentito un po' di letargia durante il periodo estivo, adesso comincia pian piano a prendere vita, e quindi insomma si cercherà di vedere anche un po' quello che accade al di fuori anche di qua, che è comunque una cosa molto importante. E quindi sicuramente ci saranno tante iniziative che continueremo a fare. Abbiamo come punto di riferimento in rete un blog dove si può trovare le informazioni sulle iniziative, che è villaveganspot.noblogs.org, o altrimenti solitamente su tutti i media di attivismo, come Indie Media, come Informazioni, di solito si trovano sempre tutte le nostre iniziative. Va bene, senti, se non hai nient'altro da aggiungere, noi ci salutiamo, ti ricordiamo insomma così anche per il futuro, se succede qualche cosa oppure se volete lanciare qualche progetto, qualche iniziativa, insomma la radio è diciamo libera, potete chiamare quando vi pare o potete chiamare noi o anche quando non ci siamo noi, naturalmente se succede qualcosa di grave chiamate, insomma noi diamo notizia. D'accordo. Teniamo alta l'attenzione. Va bene, grazie mille per la disponibilità. Okay. Ciao, ti ringraziamo per la telefonata e niente, salutaci tutto e migliori auguri per Villa Vegan. Va bene, grazie mille, saluti a tutti anche a voi. Ciao. Umanista, buonsensista, conformista di ogni dove, centro, destra e sinistra, qualunquista, consumista, spettatore, meccanicista, come cieco automa e sonnambulo divori, spravincoli morti e sei tu morto dentro e fuori. Press. pesce, latte, uova e alimenti degli animali. Annientamento di esseri viventi come te, uomo senzienti, capaci di soffrire, di provare sentimenti. Un nero giove sfruttamento che ti infligge agli esseri inferiori ogni tormento. Annulla la loro base implacabile e sicura nello scempio che tu fai ognor della natura. Di chi è nato libero ed è schiavo appena nato, con un sol diritto di venir reificato. Inquinatore, sterminatore, fiumi, monti, mari, laghi, boschi, pesci, uccelli, gli animali umani e non umani son fratelli. Di mai addentro il velo sei immerso fino al collo, niente stelle nella notte del grande fratello. Servo volontario, suddito ultrapassivo, che trasformi in morto ogni essere che è vivo. Lì sta il fondo, il fondamento dell'alienazione, se non cessa quello mai sarà rivoluzione. Libertà, uguaglianza, lanza tre la specie, s'alza il vento sulla terra e l'erba ancora cresce. E secondo contatto telefonico di questa serata, in realtà questo verterà su un avvenimento del prossimo sabato 22 settembre, dove sempre nella provincia di Brescia, esattamente a Montirone, si terrà una protesta contro un allevamento di visoni. Appuntamento sabato 22 settembre 2012 a Piazza Manzoni, ritrovo alle ore 15 a Montirone in provincia di Brescia, con una certa, come dire, sagacia, diciamo così, il corteo è stato chiamato da Montichieri a Montirone dal Beagle al Visone. Sembra un po' che succeda tutto in provincia di Brescia. Cosa c'è a Montirone? A Montirone, paese di 4.000 abitanti a pochi chilometri da Brescia, poco meno di due anni fa si è insediato un allevamento di visoni che imprigiona 3.000 individui, di cui 800 femmine, destinate a continui stupri e continui parti. L'allevamento sembra essere spuntato all'improvviso in mezzo alle case, portando con sé fetore, liquami, ma soprattutto i lamenti strazianti degli animali in gabbia, come ha dichiarato un abitante da un giornale locale. Davanti alle lamentele della popolazione, il sindaco si è accorto della presenza dell'allevamento e ha successivamente emesso un'ordinanza per la sua chiusura, posticipata dal TAR a fine novembre, per non interrompere il ciclo vitale degli animali in gravidanza, il che vuol dire per permettere all'allevatore di lucrare, diciamo, ancora sulla vita di altri visoni che sono quelli che nasceranno. Parrebbe dunque che la questione sia già risolta, che il lieto fine sia già pronto, ma le realtà che organizzano questo presidio, Essere Animali, Nemesi Animale e gli antispecisti libertari di Brescia, ritengono che sia comunque fondamentale far sentire in maniera incisiva la presenza e far capire non solo alla famiglia Bellina De Poli, che sono i proprietari dell'allevamento, ma anche a tutti quegli allevatori e agricoltori che in Italia, attratti dal canto da sirena dell'Associazione Italiana Allevatori Visoni, stanno pensando di iniziare a guadagnare sulla pelle degli animali da pelliccia. Va detto che in Italia negli ultimi 15 anni gli allevamenti di animali da pelliccia sono passati da 150 a poco più di una decina, quindi è un settore che, diciamo, è un passo quasi dalla crisi, e quindi è importante continuare continuare a colpirlo, e questo presidio è un modo per farlo. Prima di andare in collegamento con l'attivista di Essere Animali, che sentiamo che ci spiegherà il presidio, vale la pena però un attimo dare una veloce letta di parte di un articolo che Federfauna ha pubblicato sul proprio sito. Federfauna, per chi non la sa, leggiamo dal loro sito, è la Confederazione Europea delle Associazioni di Allevatori, Commercianti e Detentori di Animali. In pratica è la confederazione che unisce a vario titolo e in varia forma tutti coloro che sono legati allo sfruttamento degli animali. Sulle pagine del sito di Federfauna appaiono continuamente dichiarazioni di vivisettori, allevatori, cacciatori, pescatori, circensi e via, tutta questa gente qui. La cosa divertente a quanto pare è che l'allevamento di Montirone, lo stesso che 22 settembre contro il quale ci sarà un presidio, il 28 settembre, una settimana dopo, dalle ore 10 alle ore 15, insieme a un altro allevamento di animali da pelliccia, l'allevamento di Capralba in provincia di Cremona, ha fatto una sorta di open day, ovvero sia i cittadini potranno entrare a visitare gli allevamenti, un po' come se negli anni 40 i tedeschi portassero turisti all'interno di Auschwitz o di altri campi di sterminio. Leggiamo un estratto dal sito di Federfauna per farci una risata, anche se veramente si tratta di una risata amara. Quale modo migliore di far conoscere al pubblico la realtà dell'allevamento del visone se non quello di mostrarglielo dal vivo? Contrariamente a quanto sostiene la propaganda animalista, oggi l'allevamento di animali da pelliccia in Italia e in tutta Europa è uno tra i più rispettosi del benessere animale, regolato da rigide normative, ha una concreta valenza ecologica. Il settore sta godendo di un periodo di grande crescita con ottime prospettive economiche e occupazionali. Insomma, un quadro esattamente opposto a quello presentato anche da molti media, frutto probabilmente più della malafede che dell'ignoranza degli animalisti, alcuni dei quali, dopo aver descritto torture e crudeltà in realtà inesistenti, sono arrivati addirittura a dire che sono le scoregge dei visoni a creare l'effetto serra. Da ciò la decisione dell'Associazione Italiana Allevatori Visoni di rispondere alla disinformazione con l'informazione e via dicendo, poi lì c'è un continuo delirio, insomma, e poi l'articolo finisce. Vabbè, questo articolo è chiaramente un articolo di propaganda che assomma tutta una serie di inesattezze e di deliri veri e propri. Vale la pena ricordare che prima di lanciare questa iniziativa alcuni attivisti hanno girato un video proprio e scattato delle foto proprio dell'allevamento di Montirone, dove si vede chiaramente animali confinati in piccole gabbie, animali feriti, animali stressati e via dicendo. Insomma, tutto quello che siamo abituati a vedere in qualsiasi allevamento di animali da pelliccia. E va bene, mettiamo un po' di musica e poi andiamo con la telefonata all'attivista di Essere Animali. suerte en una fiesta. ¡Torero! Llega el lado brutoro que no puede escapar. Bacterias se clavan en su cuerpo ya cansado. Su sangre salpicando y tú lo ves. ¡Tú lo ves! Corta rabo y oreja. ¡Torero! Yo no entiendo por qué hay que festejar. La muerte y la tortura no es arte ni cultura. Es el lema, no lo tienes que olvidar. ¡No! Ver tortura animal. Nunca más tortura animal. No quiero ver tortura animal. Nunca más tortura animal. Immaginare quando di solito quando mettiamo due pezzi musicali è perché abbiamo problemi tecnici e questa è una di queste. Vabbè, non è colpa nostra stavolta, però. Non riusciamo a sentire la persona che volevamo sentire. E ci riproviamo adesso in questi ultimi minuti che ci restano. Comunque, qualora non dovessimo riuscire a sentirli, ribadiamo l'appuntamento del presidio contro l'allevamento di visoni a Montironi. Però per attenzione, pare che forse siamo. Dai, che ce la facciamo. Pronto, ci senti? Sì, vi sento forte e chiaro. Ok, perfetto. Allora, dopo una serie di telefonate andate male, problemi al cellulare. Pezzi musicali mandati. No, noi intanto abbiamo un po' introdotto il presidio e chiaramente abbiamo detto la data e il luogo e l'orario. Ci puoi raccontare un po' com'è questa situazione di questo allevamento che è nato da un paio di anni, come ne siete venuti a conoscenza e come è nata anche appunto la decisione di vostro gruppo S Animali, di Nemesi Animali e degli antispecisti libertari di Brescia di organizzare un presidio. Certo, esatto, quindi sapete già tutto, sapete il luogo e il ritrovo per sabato 22 per questa protesta organizzata congiuntamente da queste tre realtà antispeciste. E niente, siamo venuti a conoscenza di questo luogo, dell'esistenza di un allevamento di visoni a Montironi in provincia di Brescia dalla stampa, in una situazione anche abbastanza particolare perché più articoli di giornale riportavano il paese, diciamo la cittadinanza del paese di Montironi, lamentarsi per i cattivi odori che questo luogo sprigionava. E questo è anche il motivo che ci spinge ad andare a Montirone, cioè a cercare di portare un discorso principalmente etico verso l'utilizzo degli animali da pelliccia, e è questo appunto che ci spinge a fare questa protesta sabato 22. Pensiamo che più dei cattivi odori e degli odori nauseabondi che sprigiona un allevamento di visone, che sicuramente sono veritiere queste cose, sia più che altro un discorso principalmente etico da sottolineare, anche perché tutti gli allevamenti sono antietici per gli animali. Ogni animale vorrebbe essere libero, vorrebbe vivere la propria vita in libertà, e l'allevamento è una costrizione grossissima, e in particolare gli allevamenti di visone sono dei veri e propri lager, animali che sono allevati in gabbie piccolissime, nessuna diciamo condizione etologica da parte loro è rispettata, e tutto questo è il preambolo a una fine orribile che fanno dopo 6-7 mesi di vita, quando vengono inseriti in vere e proprie camere a gas e uccisi, soffrendo, patendo le pene dell'inferno, e scoiati per un'industria veramente assassina che finanzia il mercato della pelliccia. Ti volevo dire, voi ho visto anche che avete prodotto insieme a Nemesi Animale e Antispecisti Libertari una prima documentazione sulla realtà dell'allevamento di Montirone, no? Esatto. Genero foto, filmati e via dicendo. Certo. Molte persone magari non si immaginano che cosa può essere un allevamento di animali da pelliccia, le grida degli animali, l'odore, che poi in realtà è allevamento di visoni tanto quanto allevamento di galline o di conigli. Tra l'altro sul vostro sito, che invitiamo tutti ad andare a vedere, c'è una documentazione sul riscatto di 12 conigli da un allevamento intensivo, e anche soprattutto foto e filmati su come vivono questi conigli. Ci puoi dire un po' al volo, ecco, velocemente, la realtà dell'allevamento di Montirone? Tra l'altro io abbiamo letto prima in radio che su Federfauna, noto sito insomma dei sfruttatori di animali, è stato pubblicato il fatto che il 28 settembre, una settimana dopo, faranno l'open day nell'allevamento, che ovviamente sarà ripulito e tutto quanto. La realtà vera dell'allevamento di visoni che cos'è invece? Niente, i visoni sono animali che sono allevati, come dicevo prima, in gabbie molto molto piccole, completamente di rete metallica, anche il pavimento, quindi questi animali si trovano a passare tutta la loro vita rialzati da terra, rinchiusi in queste piccole scatole di rete, e addirittura sono animali che ovviamente non toccano mai con le loro zampe il terreno, lo vedono ma non sanno neanche cosa vuol dire l'erba al contatto con le loro zampe. Passano tutta la loro breve vita in queste piccole gabbie, e al pari di tutti gli animali, come giustamente sottolineavi te, che sono rinchiusi negli allevamenti, soffrono e vorrebbero essere liberi, però è sicuramente vero che i visoni non hanno perso il loro naturale istinto selvatico, anche generazioni dopo generazioni che vengono riprodotti in cattività comunque mantengono il loro innato spirito selvaggio, e quindi a maggior ragione si potrebbe dire che per loro questa forma di prigionia insomma li conduce a una vita piena di sofferenze. E niente, l'allevamento di Montirone è un allevamento che è costituito all'interno di un ex allevamento di polli, quindi al contrario di molti altri allevamenti di visone è dentro un capannone, è dentro comunque all'interno di questo capannone vi sono file e file di gabbie dove 3.000 animali circa sono in attesa di morire. Principalmente l'uccisione avviene verso i mesi di novembre e verso i mesi di dicembre, quando l'allevatore li strappa proprio dalle loro gabbie, li inserisce in delle camere a gas che il più delle volte sono costituite da un tubo di scappamento di un trattore che è inserito in una scatola ermetica dove i visoni prima di morire agonizzano anche parecchi minuti. Questa è la realtà di tutti gli allevamenti di animali da pelliccia in tutta Europa, infatti nel nostro video trailer che abbiamo messo anche sul nostro sito internet esseranimali.org, nella nostra pagina Facebook che invitiamo tutti quanti a consultare, è presente una documentazione di quelle che sono le numerose investigazioni che varie organizzazioni animaliste hanno portato alla luce negli ultimi anni, dalla Spagna ai paesi scandinavi, che sono i più rinomati diciamo per questa tipologia di allevamento di animali da pelliccia, in tutte le nazioni le situazioni sono state sempre le stesse: animali con gravissime turbe psichiche, animali con comportamenti stereotipati che molte volte degenerano anche diciamo, in situazioni ben più gravi dei comportamenti stereotipati, perché molte volte ci sono animali che compiono atti di autolesionismo, che sono resi pazzi proprio dalla prigionia che anticipa, che è l'anticamera di quello che è il vero e proprio inferno, che è la morte per aggasamento. Senti, il numero di allevamenti di animali da pelliccia è rapidamente decresciuto in questi ultimi 10 anni in Italia. Qui, per esempio, anche in provincia di Roma, o meglio nel Lazio, ce n'erano 2 che in pochi anni hanno chiuso, uno a San Cesareo proprio in provincia di Roma e uno in provincia di Viterbo. Quindi tutto fa pensare a una realtà che sta declinando. Ma è realmente così? E al di là dell'Italia, anche in una prospettiva europea, per esempio, non tutti sanno, anzi molti lo ignorano, che un paese dove c'è una grandissima produzione di pelli è la Grecia, che può sembrare una cosa molto strana, ma invece la Grecia è un paese stracolmo di allevamenti di animali da pelliccia. L'idea è quella di un settore che sia in declino, almeno a livello europeo, oppure no? Il settore è sicuramente in declino e l'Italia rappresenta un buon esempio nel descrivere questa situazione, perché fino a una ventina di anni fa circa gli allevamenti di visoni erano più presenti, dislocati in tutto il territorio, dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia. Si contavano circa una settantina di strutture riguardo agli allevamenti di visone, alcuni allevamenti di volpi e molti allevamenti di cincillà. La situazione attuale italiana è sicuramente molto ridimensionata. Noi abbiamo a conoscenza di circa una decina di allevamenti di visoni presenti nel territorio italiano, a cui si è aggiunto appunto da poco tempo la conoscenza della realtà di Montirone in provincia di Brescia. Questo è uno specchio che sinceramente riguarda principalmente l'Italia. Nel corso degli anni, negli ultimi anni, soprattutto grazie alle pressioni animaliste, questo è da sottolineare, perché non sono state altre le motivazioni che hanno spinto alla chiusura. Basta pensare che l'Inghilterra, l'Austria sono riuscite con forti pressioni appunto su stampo etico a portare alla chiusura e a un divieto nazionale di allevamento di questi animali, di animali da pelliccia. Un allevamento che è un divieto che è molto bello, perché trae spunto da motivazioni etiche, quindi viene considerato un allevamento, diciamo, da bandire, perché appunto per questi animali non è compatibile una vita in prigionia. Come sottolineavi te, comunque la produzione si sta un po' spostando, perché sicuramente il caso della Grecia è un caso lampante, perché si stanno veramente verificando un boom di strutture che nascono, di allevamenti di visone che nascono, però si parla anche di Polonia e di altri paesi dell'est europeo in cui questo allevamento sta incrementandosi. Sì, e poi adesso un piccolo inciso, senza entrare troppo nella problematica che affronteremo successivamente, visto che ci avviciniamo verso l'autunno e poi l'inverno. È vero che c'è anche una diminuzione nel consumo delle pellicce, cioè le persone non comprano più pellicce, però c'è anche un altro tipo di... l'industria della pelliccia si è trasformata e quindi inserisce degli elementi di pelliccia come collo, come scarpe, senza appunto spingerla come pelliccia, così che anche il consumatore è meno consapevole che ha addosso un animale che ha subito sofferenze. Certo, infatti hai anticipato un discorso molto importante che volevo accennare, perché molte volte le persone hanno in mente la pelliccia come il classico capo intero, molto lussuoso, elegante, anche costoso, che era tipico un po' dell'informazione che le realtà animaliste facevano negli anni 80. Probabilmente questa informazione è arrivata anche all'occhio, alle orecchie dell'industria della pelliccia, e difatti leggendo dossier, diciamo, del settore proprio di questa industria, è facile capire come loro stessi hanno tentato di spostare, diciamo, quello che era il trend di mercato, quindi di spostarlo verso il capo elegante, la classica pelliccia intera, a quelli che sono definiti gli inserti di pelliccia, ovvero bordature presenti nei colli di giacconi, di giubbotti, per cercare appunto in primis di nascondere quello che era un capo che ultimamente appunto con gli anni era un po' il simbolo di una moda crudele sotto appunto gli occhi di tutti. Nascondendo questi inserti di pelliccia, ma nascondendolo nel vero senso della parola, perché troviamo inserti di questo tipo che vengono addirittura rasati, colorati, colorati, con etichette molte volte fuorvianti che non danno al consumatore una giusta informazione sulla provenienza diciamo del pelo in oggetto. Grazie a questo, a causa diciamo di questo nascondiglio che hanno perpetrato gli addetti ai settori, la pelliccia ha avuto una nuova rinascita, essendo disponibile non più solo magari in quei negozi, in quelle boutique che era ovvio che vendessero questi oggetti, questi indumenti, ma riuscendo così a raggiungere anche i grandi magazzini, le case di moda, dove magari prima la pelliccia era preclusa. Questa è veramente una cosa vergognosa, scandalosa, perché questo tipo di moda assolutamente antietica e crudele, irrispettosa verso gli animali, è resa così accessibile a tutte le persone che molte volte sono ignare dell'acquisto che fanno e ignare del fatto che con i loro soldi vanno anche a sponsorizzare comunque un'industria che lucra sulla sofferenza degli esseri viventi. Ok, senti, ti ringraziamo per il contributo, non so se ci vuoi dire un'altra volta quando è l'appuntamento, dare un certo po' dov'è, insomma, tutto quanto. Certo, intanto vi ringrazio anche a voi per la possibilità che ci avete dato di parlare di questa protesta, che si svolgerà il 22 settembre, sabato prossimo, alle ore 15, in piazza Manzoni, a Montirone, in provincia di Brescia, e ne approfitto anche per diciamo ridire quelli che sono i nostri contatti del nostro sito internet e della nostra pagina Facebook, esseranimali.org. All'interno trovate anche tutte le informazioni per potervi diciamo iscrivere, prenotare un posto per un pullman. Difatti dalle nostre parti, Essere Animali è un'associazione principalmente che ha sede in Romagna, dalle nostre parti per raggiungere più facilmente Montirone, per dare la possibilità a tutti quanti gli attivisti che vogliono venire appunto di partecipare, abbiamo organizzato un pullman che partirà la mattina alle 9 circa da Pesaro e farà varie tappe, Pesaro, Forlì fino a Bologna, Modena, per diciamo proprio raccogliere tutti gli attivisti che vogliono venire, per essere più comodi raggiungere la nostra protesta. Nella pagina Facebook di Essere Animali potete trovare tutte le informazioni per iscrivervi e per venire sabato insieme a noi. D'accordo, ti ringraziamo della disponibilità, della telefonata, e migliori auguri per la protesta e, grazie a voi. E migliori auguri anche in generale per l'attività di Essere Animali, ci eravamo già sentiti. Grazie mille, grazie ancora per la possibilità. E ricordati, qualsiasi cosa, la radio, questa trasmissione, per qualsiasi comunicazione, informazione, richiesta di collaborazione e via dicendo, è sempre aperta. Va bene, okay, molto ciao, volentieri. Buona serata, ciao, ciao, grazie. Sento che non senti, sento che non vedi. E allora torniamo in diretta, così con una lunga lista di appuntamenti che ci saranno, uno in particolare che non è tra poco, però ce lo spingiamo parecchio perché lo stiamo organizzando anche noi e poi perché parla di una cosa abbastanza delicata, che sono tutta l'ondata repressiva che c'è stata quest'estate contro tanti compagni e compagne. Vi vengo a leggere il testo che abbiamo scritto. Non ci sono gabbie che tengano. È stata un'estate intensa, scandita dal tintinnio delle gabbie. Alcune gabbie sono chiuse, come quelle che tengono prigionieri e prigionieri, sempre gli animali non umani e quelli umani. È il caso delle celle delle carceri, che ora detengono qualche compagno e qualche compagna in più, come Alberto, Marina, processati per le rivolte del G8, o quelle che tengono Katia, Sergio, Elisa, Giuseppe, Paola, Giulia, Alessandro, Stefano, Massimo, arrestati e arrestate soltanto perché anarchici e perché anarchiche, e con loro tanti e tanti altri nomi che quest'estate italiana si è presa. E poi le gabbie che tengono prigionieri miliardi di vite, che considerano solo, che conosceranno soltanto sfruttamento, sofferenza, violenza e morte, sono le gabbie degli allevamenti e dei laboratori, le gabbie che tengono segregati gli animali sfruttati a causa del capriccio, dell'egoismo e dell'avidità umana, a causa dello specismo che dobbiamo combattere in ogni modo. Alcune gabbie invece sono state aperte, come quelle dell'allevamento di cavini Beagle da vivisezione Green Hill, come quelle di Francesco e Giuseppe, sfuggiti dalle condanne del G8, come quelle dei reclusi evasi dal CIE di Bologna e come quelle di tanti animali che in ogni parte del mondo vengono liberati e salvati dai luoghi di sfruttamento. Che le gabbie siano chiuse dipende soltanto da noi. Non esistono serrature che non possono essere forzate. Bisogna solo trovare il grimaldello giusto. Dai laboratori di vivisezione agli allevamenti, dalle carceri ai CIE. Tutte le gabbie devono essere aperte e tutti e tutte noi possiamo farlo. Di benefit in benefit ne vogliamo dire un altro che prendiamo. Aspetta, scusa una cosa. Non ho detto. Interruttus, vengo interrotto sul più bello perché ovviamente ho dimenticato la data. Perché una costante di quando si lanciano gli appuntamenti in questa trasmissione è che io no, gli altri si dimenticano sempre. E certo, l'altri. Sempre le date e il luogo. Vabbè, comunque. Siamo una trasmissione, devi parlare a nome di tutti, non è che puoi dire io sono bravo e voi no, fate cagare. Comunque, il lungo comunicato, no, non lungo, dai, il comunicato che vi ho letto si riferiva appunto a un'iniziativa che si terrà il 6 ottobre a Laurentino occupato all'L38 Squat, è un'iniziativa antispecista, dalle ore 6 ci sarà una proiezione di video, dalle ore 18, sì, se no non credo che nessuno sarebbe venuto alle 6 di mattina all'L38 Squat, comunque dalle 18... fuso orario più uno da Greenwich a Laurentino occupato, appunto dibattiti e proiezioni, dopodiché cena a cura di Vegan Riot e poi a seguire concerto con Livore, noto gruppo punk hardcore. E niente, siete tutte e tutti invitati. E va bene, comunque vedo che stiamo sbaccando perché abbiamo un'autonomia abbastanza limitata, noi dopo un po' andiamo in tilt e cominciamo. Comunque dicevo, di benefit in benefit, e ne citiamo un altro dal sito animalequality.it, cena vegan benefit per i Barcam 4 che si terrà sabato 22 settembre dalle 8:30 in poi della sera, ovviamente, è una cena, presso il Rewild Cruelty Free Club in via Giovannipoli 18 zona Garbatella a Roma, prezzo 10 euro. Che cosa sono i Barcam 4? Il Barcam 4 è un caso di repressione avvenuto in Olanda, vi leggo dal sito Animalequality. In una notte di fine ottobre 2009 circa 5.000 visoni sono riusciti a scappare da un allevamento in cui erano rinchiusi per la loro pelliccia. La polizia olandese ha successivamente arrestato 4 persone, tutti attiviste e attivisti vegan impegnati in precedenti campagne e accusati della liberazione delle visioni dei visioni dell'allevamento. 3 abitazioni sono state perquisite, computer, alcuni dispositivi digitali, scarpe, oggetti di altro genere sequestrati. Dopo 2 anni di attesa, il 25 e il 27 settembre si terrà il processo in Olanda e gli imputati di questo caso sono stati chiamati appunto Barcam 4, Barcam dal nome della località. L'idea appunto di questa iniziativa quindi è di raccogliere fondi per le spese legali di questi 4 attivisti. È importante perché la forza di un movimento, di qualsiasi movimento di liberazione, si stabilisce anche e forse soprattutto in base alla solidarietà che ciascuno e ciascuna riesce a dimostrare nei momenti di difficoltà alle persone, agli attivisti, ai compagni che hanno problemi legali o subiscono atti di repressione. E altro appuntamento? Sì. rilanciamo l'appuntamento che abbiamo già lanciato altre volte, ma che continueremo a dire, del 20 ottobre, manifestazione contro Arlan e la vivisezione a Correzzana. Il ritrovo è alle ore 14:30. Penso che si stiano già organizzando anche i pullman, però vi daremo aggiornamento alle prossime puntate. Adesso mettiamo una canzone. Allora mi dicono di spiegare cos'è Arlan. Già l'abbiamo spiegato in altre puntate, però allora la lotta contro la vivisezione, che appunto si è concentrata su Green Hill nell'ultimo periodo, attualmente si concentra contro quest'altra fabbrica della morte, Arlan, che in particolare gestisce lo smistamento, diciamo così, di scimmie destinate ai laboratori di vivisezione di tutta Italia. Già erano arrivate appunto delle scimmie a febbraio, 900 scimmie in particolare, che appunto venivano, che sono state smistate da Arlan nei diversi laboratori italiani e su cui si è taciuto. Fortunatamente l'attenzione in questo momento è alta e la lotta contro la vivisezione non si arresta, e quindi continueremo a lanciare questo appuntamento. E adesso lanciamo una canzone e poi no, abbiamo un altro appuntamento da lanciare. Anche quest'anno si terrà il Fan Block Camp, quest'anno si terrà alla caserma del Fante a Livorno il 28, 29 e 30 settembre. Non vi veniamo a leggere quali sono, diciamo, tutti i workshop, i dibattiti, comunque sono molto interessanti. Ci stanno sia dibattiti di tipo teorico, sia dibattiti anche più di tipo pratico, di autocostruzione, autodifesa, eccetera, e molti anche a tema antispecista. Potete trovare tutto quanto sul sito feministblogcamp.noblogs.org, oppure, come di consueto, sul sito di Femminismo a Sud, femminismoassud.noblogs.org. Vabbè, mettiamo una canzone allora, finalmente, ok? We're all sentient beings. ritorniamo in diretta. Volevamo segnalare quasi in chiusura una situazione che poi però approfondiremo nelle prossime puntate. Il rifugio Non Macello ha bisogno di aiuto. In sostanza, il rifugio Non Macello è un rifugio che è sito a Genova e si occupa del recupero di animali sottratti ai mattatoi, agli allevamenti, che si sono salvati quindi da situazioni di sfruttamento e di sofferenza: vitelli, mucche, cavalli, asini, capre e via dicendo. Che cosa è successo? È successo che con la avvicinarsi della stagione invernale hanno bisogno di soldi per costruire un progetto che in realtà è stato già approvato per costruire dei ricoveri, delle stalle, diciamo, per questi animali, per non lasciarli ovviamente al freddo d'inverno e senza rifugio e senza riparo. Per qualsiasi informazione e anche per la possibilità di incontrarli, di aiutarli, vi rinviamo al loro sito, che è www.nomacello.org, associazione che gestisce un rifugio di animali a Genova e che poi situazione che approfondiremo nelle prossime puntate. Questa problematica, in realtà questa associazione aveva dei box provvisori per gli animali, che però sono stati adesso minacciati di essere smantellati, perché c'è stata una denuncia da parte di ignoti del fatto che avevano dei box abusivi. Quindi i soldi che avevano a disposizione li avevano investiti in questi box provvisori in attesa di finanziamento per questi box fissi, ma in questo momento si trovano in grave crisi economica perché sono sopraggiunti questi eventi così disastrosi. E, per concludere, lanciamo poi un ultimo appuntamento, che è un corso di cucina vegan indetta da Vegan Riot, che dal titolo If a Zombie Bites a Vegan, While the Vegan Become a Vegan Zombie. Vi leggo cosa scrivono. Allora, l'attesa è finita. Dopo la pausa estiva finalmente torna il corso di cucina vegan di Vegan Riot. Mettere le mani in pasta non è mai stato così divertente. Il 22 e il 23 settembre. Gli appuntamenti sono due e distinti. Programma: ore 10-13.30, preparazione collettiva di un pasto vegan dall'antipasto al dolce. Ore 13.30, consumazione di quanto preparato. Contributo corso 20 euro, pranzo incluso. I partecipanti potranno essere raggiunti per il pranzo, previa prenotazione, da uno o più accompagnatori dietro il pagamento di un piccolo contributo di 7 euro di corso. Massimo 10 partecipanti. Adesso salto un po'. Il riferimento è... cioè, innanzitutto questa iniziativa sarà sarà al Macchia Rossa, al centro sociale Macchia Rossa, che si trova in via Pieve Fosciana 56 a Roma, e per prenotazioni il riferimento è vecchiosaggiohc@hotmail.it. Questo l'ho letto da Roma Attiva. Diciamo pure una cosa che ci piace, è che c'è scritto: le adesioni su Facebook non verranno prese in considerazione, quindi ovviamente boicotta il social network, boicotta Facebook, boicotta quell'altra roba che cinguettano, come si chiama, insomma, Twitter che cinguettano. E vabbè, quindi insomma sta cosa ci piace. E niente, con questo vi salutiamo, vi diamo i nostri riferimenti come sempre: il blog Radio Possum, noblogs.org, e l'indirizzo mail lagazzaladra@inventa.org. Sei diventata bravissima. Oggi tra l'altro lo chiudiamo anche con una bella canzone. Non so se sentire sotto c'è How Soon Is Now dei The Smiths. Vi piace? Questa è figa, raga. Sì. Un po' vintage, sì. E niente, vi lanciamo l'appuntamento sempre il prossimo lunedì dalle ore 22. E niente, mandiamo come al solito, salutiamo tutte e tutti i compagni che purtroppo sono privati e private della propria libertà personale, e poi come al solito salutiamo tutti e tutte coloro che ci ascoltano privati e private della propria libertà personale. Siano essi umani e non. Anche che non ci ascoltano in realtà. Anche che non ci ascoltano, certo. Ciao! Ciao!